Ciao, buongiorno a tutti. Appunto, partirei proprio, diciamo, visto che la questione è quella di come sia tornato negli ultimi giorni, si è visto un ritorno, diciamo, della questione Satana e sette sataniche, ma anche dell'esorcismo, sono rimbalzati un po' molti titoli di giornali. E tu, appunto, avevi scritto questo libro e seguito la questione dei bambini di Satana, che si era svolta proprio, tra l'altro, a Bologna. E ti chiederei per prima cosa di raccontarcela un po'. Allora, la vicenda nasce e si sviluppa in un periodo particolare, in un periodo poi molto diverso da quello di oggi. Ogni volta che si cita il satanismo, ma in generale si citano sette credenze più o meno esoteriche, la curiosità che sfocia spesso nella morbosità è molto, molto presente. Tornando indietro alla metà degli anni 90, quando inizia la vicenda, noi la dobbiamo contestualizzare all'interno di due fatti che tornano per alcuni aspetti e tornano perché la vicenda dei bambini di Satana non è solo legata alla questione satanista, ma viene coniugata in parallelo a violenza sessuale e in particolare sui minori. Questo diciamo che dalla fine del decennio precedente e il 1990 in sostanza la questione della mediatizzazione della violenza sui minori era diventata molto rilevante. C'era stata appunto la vicenda di una bimba che si chiamava Miriam Schillaci, aveva 3 anni, la sua famiglia originaria di Piazza Armerina in Sicilia, in provincia di Enna, che si era trasferita in Lombardia. La bimba viene portata al pronto soccorso ed ha delle lesioni nella zona genitale. Il padre, che era un insegnante, viene arrestato e diventa mediaticamente il mostro. Di fatto poi verrà accertato da un punto di vista giudiziario che la bimba era affetta da una neoplasia che poi l'avrebbe anche uccisa. Il padre non le aveva usato alcun tipo di violenza. Fatto sta che la campagna mediatica scatenata contro quest'uomo è stata devastante. Lui, oltre ad aver perso la figlia, ha la vita rovinata anche dalle conseguenze della campagna mediatica. Poi nel 1997, per cui pochi anni dopo, abbiamo invece un caso di una vera violenza che si conclude con un omicidio, che è quella di Silvestro Delle Cave, un bimbo di 9 anni che viene portato dal padre ad un'attività pomeridiana post-scuola e a quel punto scompare. Il bambino verrà ritrovato poi ucciso e in perizia verrà accertato che il bambino è stato stuprato da poi 3 uomini, un anziano, un settantenne e i suoi 2 generi più giovani, assassinato e poi bruciato. Questi due fatti, che sono stati molto mediatizzati, creano un forte allarme che porterà poi anche a degli errori giudiziari successivi che avranno a che fare con gli insegnanti all'interno di scuole dell'infanzia. A Bologna l'elemento satanismo messo in gioco appunto dalla figura di Marco Dimitri, da questa associazione che si era creata intorno a lui, avrà una combinazione mediatica travolgente, per cui al di là di quello che sarà l'andamento giudiziario, che poi apporterà appunto all'assoluzione definitiva di tutti gli imputati e al loro risarcimento per ingiusta detenzione, perché si fanno 400 giorni di carcere preventivo, porta a una pura intossicazione mediatica complessiva, tanto che in quegli anni noi avremo alcuni degli esempi più fulgidi dal mio punto di vista dell'attività di Luther Blissett, che inizierà a far vedere attraverso un aumento, una sorta di omeopatia informativa, un aumento dell'intossicazione, quanto poi la questione delle sette di tipo satanico e di presunte violenze che loro conducono, di fatto sia un'esagerazione che all'interno della fantasia collettiva cresce e si propaga ad una velocità incredibile. Ecco, visto che citavi il clima proprio mediatico, ti Sì. chiederei di farci magari una valutazione anche di come interpreti tu il clima mediatico di questo periodo invece, soprattutto i vari riferimenti appunto alla questione, penso alla questione di Satana nello sketch di Virginia Raffaele, ma anche al corso invece promosso dal MIUR. Ma allora, da un certo punto di vista non siamo per fortuna alla gravità dei fatti della metà degli anni 90, oltre Bologna ci furono i fatti poi di Finale Emilia e di questa presunta setta che poi si dichiarò inesistente, che rapiva i bambini e li portava nei cimiteri per pratiche sostanzialmente violente. Ricordiamo, venne accusato un parroco assolutamente ineccepibile come Don Govoni, che morì durante l'iter processuale e poi venne assolto da morto in questa vicenda. Qui è sostanzialmente, a mio avviso, un vuoto di contenuti che si ricollega in un vuoto più complessivo, innanzitutto una prevalenza delle credenze e delle pseudoscienze nel dibattito collettivo. Un esempio per tutti, la questione vaccini, copertura vaccinale e la veemenza dei Novax nel difendere certe questioni che non supportate da alcuna prova scientifica. Dall'altro, uno spostare l'attenzione e più che sullo sketch di Sanremo e la risposta dell'esorcista, che mi sorprendono molto poco. Insomma, quando c'era Padre Amort, vedevamo il decano degli esorcisti italiani, vedevamo ben di peggio e di più colorito. La cosa che mi ha sorpreso, e mi ha sorpreso negativamente, è il tweet del ministro dell'interno Matteo Salvini, che con tutto quello che sta succedendo commenta Sanremo da un lato per stigmatizzare la vittoria di un ragazzo di origine straniera, peraltro per metà, non è neanche un migrante di seconda generazione perché la madre è italiana, e dall'altro appunto un puntare su una questione assolutamente inesistente come la predominanza del satanismo nel dibattito pubblico. Mi fa pensare un po' al tweet o al post, se non ricordo esattamente, del senatore Lannutti sui protocolli dei Savi di Sion, falso storico, clamorosissimo falso storico, uno dei più famosi, che viene ancora una volta, dopo tantissimi pubblicistica che ne spiega la falsità, viene di nuovo riproposto come vero, per cui ignoranza e vuoto di un vuoto valoriale complessivo che purtroppo si vede tutti i giorni. Ecco, e secondo te questo vuoto valoriale, diciamo, rischia di ripercuotersi anche a livello giudiziario, nello stesso modo in cui invece la sorta di panico, diciamo, generata dai mostri, dalle questioni delle violenze sui bambini, lo fece negli anni 90? Ma diciamo che ogni vicenda giudiziaria è una realtà a sé stante. Io mi auguro che il passato insegni, e insomma, già vicende come quella dell'asilo di Rignano Flaminio, che è di molto successiva, mi sembra un decennio successivo a quella dei bambini di Satana, in cui delle insegnanti e uomini che avevano rapporti con loro vennero mosse sostanzialmente accuse analoghe, e poi si sgonfiò molto più velocemente in modo molto meno clamoroso rispetto a quello degli anni 90. Di fatto ciò che vediamo tutti i giorni, e secondo me che meriterebbe una necessaria riflessione, è che le streghe a cui dar la caccia oggi non sono presunti satanisti, maghi, ma sono purtroppo delle persone in carne ed ossa che affrontano delle vicende umane terribili, che sono sostanzialmente migranti, che sono trasformati nelle nuove streghe contemporanee.